Accomodatevi. Ciao. Ciao. Allora, io mi chiamo Manica Giuseppe, abito qua a Cariano da tanti anni. E premetto una cosa, questo qui non è il mio orto. Io lo coltivo perché a suo tempo il signore che lo coltivava era una persona molto anziana e aveva bisogno di una mano. E così ho chiesto se voleva una certa collaborazione. Lui ha detto sì, va bene. Allora, mi ha donato, si può dire, un pezzo di orto nel quale io mi coltivavo le mie cose. Però mi sono approcciato anch'io al discorso dell'orto perché non conoscevo la realtà dell'orto praticamente. Tutto quello che vedete in questo momento qua, un tempo era coltivato. Ovvero, qui c'era una baracca dove c'era le galline e il deposito. Poi noi abbiamo fatto un po' di pulizia perché la nipote del contadino, dopo che è venuto a mancare il nonno, ha pensato di farsi una cosa molto più agevole, no? Prendere il sole, leggere i libri. Allora, lui coltivava la terra da qua. Tutto quello che vedete era coltivato. Lo lavorava tutto questo qui. Perciò qui non c'era niente. C'era solo questa pianta qua. Poi tutto quello che vedete era tutto coltivato. Non solo questo, ma anche dall'altra parte, dove avete visto le galline che ho, ok? Lì veniva di nuovo tutto coltivato, metteva patate, metteva altri ortaggi. Perciò qui era tutto coltivato. E lo coltivava come? Con due cose. Allora, lui aveva la motozappa, ok? La motozappa gli serviva per ravvivare l'orto. O, praticamente adesso, in questo momento qua, a me manca la motozappa e l'ho limitato l'orto perché a me basta per quello che vedete, no? E gli attrezzi per poter fare questo lavoro qua sono... Allora, questo è la vanga e questa è la forca. Voi sapete come viene usata questa cosa qua? Sì, dimmi. La vanga viene usata per tirare via la terra. E la forca non lo so. Allora, ambe due hanno la stessa, si può dire, capacità lavorativa, ecco. Se volete vi faccio vedere come vengono usate, ok? Venite qua. Allora. Questa viene lavorata così. Allora, voi fate questo movimento qua. Giù nella terra, no? Ok? Poi viene piegata, viene sollevata, rigirata e messa a zero, ok? Così facendo l'erbaccia va a finire sotto, che dopo poi diventa terriccio, diventa humus e ravviva il terreno. Questo è la stessa identica cosa. Come vedete, viene. Sono due attrezzi similari. Uno è fatto un tipo e l'altro di un altro. Tutto qua. Dimmi. Qual è la più semplice da usare? La più comodo, dici? Sì. Bah, diciamo che quasi quasi è più comodo questo, perché ti fa scivolare la terra, no? Vedi come volevo farti vedere prima? Fai così, la sollevi ed è più veloce. Questa qui è un po' più larga, e perciò la quantità di terra che tu raccogli è maggiore, perciò fai molto più fatica a sollevarla. Questo signore che lavorava qua si chiamava Vittorio Salizzoni. Lui praticamente tutta questa terra qua la coltivava con questo. Si passava giornata intera, non solo. Dopodiché, si può dire, l'attrezzo del contadino è anche questo. Questo è semplice, lo conoscete tutti quanti, no? Ecco, questo qui serve per cosa? Allora, innanzitutto si può fare le righe, si possono... Questo è per togliere le erbacce. Praticamente una volta coltivato, una volta messo il frutto nella terra, per riuscire a mantenerlo vivo, bello, si usa questo. Si lavori con una pianta, gli togli le erbacce e altre cose varie. Adesso diciamo che la tecnologia moderna che c'è in questo momento, si mettono dei teli anche. Si possono mettere dei teli di copertura, si fanno i buchi, ok? Ci si impianta la verdura, così si evita di stare lì con le mani, con la zappa a togliere le erbacce. Lo farò più avanti praticamente. Cosa servono quelle bottiglie là? Bella domanda. Anch'io mi ero posto la domanda come hai fatto a te. Dico, ma cosa cavolo servono quelle bottiglie lì? Allora, il nonno mi ha detto che quelle bottiglie lì servono. Quando voi seminate, allora, ci sono adesso si usano tante piantine, no? Se avete notato andate alla SAF, trovate le piantine, andate così, no? Voi fate buco, mettete giù la piantina e da lì cresce la frutta e la verdura. Mentre un tempo si seminava, si fa anche adesso, Cioè, per farvi un esempio, c'è un radicchio che viene seminato a fine di ottobre, primi di novembre, e viene raccolto verso febbraio, quando è freddo, viene fuori una verdura, la trovate anche in cooperativa, sono fetti così di come si posso dirvi, è un radicchio molto molto molto duro che viene mangiato con le uova, che è verde, rosso, e quello viene seminato con una bustina, così prendi la bustina di granellini e lo semini e lo giri sotto la terra. Questi servono per spaventare gli uccellini. Cosa servono quelle bottiglie là? Bella domanda. Anch'io mi ero posto la domanda come hai fatto a te, dico, ma cosa cavolo servono quelle bottiglie lì? Allora, il nonno mi ha detto che quelle bottiglie lì servono. Quando voi seminate, allora, ci sono adesso si usano tante piantine, no? Se avete notato andate alla SAF, trovate le piantine, andate così, no? Voi fate buco, mettete giù la piantina e da lì cresce la frutta e la verdura. Mentre un tempo si seminava, si fa anche adesso, Cioè, per farvi un esempio, c'è un radicchio che viene seminato a fine di ottobre, primi di novembre, e viene raccolto verso febbraio, quando è freddo, viene fuori una verdura, la trovate anche in cooperativa, sono fetti così di come si posso dirvi. Un radicchio molto molto molto duro che viene mangiato con le uova, che è verde, rosso, e quello viene seminato con una bustina, così prendi la bustina di granellini e lo semini e lo giri sotto la terra. Questi servono per spaventare gli uccellini. Quanto è stato faticoso piantare le cose? Allora, piantare le cose non è tanto faticoso, è riuscire a trovare, secondo me, perché io ti ripeto, non sono un contadino, perciò io mi appoggio tanto al discorso di quelli che fanno i contadini praticamente. Allora, in questo momento qua è marzo e da marzo in poi si deve cominciare a ravvivare la terra. Come avete visto è già tutta quanta arata, l'ho seminata con, si può dire, il letame biologico praticamente, o si può togliere, cioè prendere anche il letame vero e proprio, no? Il letame è quello delle mucche, ok? Quello è proprio molto più intenso perché ha più carica praticamente. E poi ci sono le varie, come si può dire, i vari mesi dove poter mettere giù le cose. In questo momento qua adesso non so, ci sono gente che dicono che bisogna seminare i rapanelli e altre cose varie, io non me ne intendo, perciò io parto sempre da aprile, verso la fine di aprile, e comincio a mettere giù l'insalata, le cipolle, il pomodoro, poi metto giù le zucchine, tutte le cose che più o meno in un paio di mesi, 40 giorni, ci possono mangiare. Dimmi. Qual è il cibo che hai coltivato che ti piace di più? Allora, quello, diciamo che a me piace tantissimo l'insalata, il pomodoro, nient'altro praticamente, ma le specie che da coltivare sono tantissime. Sapete quante specie ci sono? Ce ne sono parecchie. E volevo sapere cosa coltivi di solito e perché. Allora, ripeto, allora qua io coltivo il pomodoro. Perché lo metto qua? Il signore che mi ha dato l'orto mi ha detto, questa qui è l'esperienza. Secondo voi perché va messo qua il pomodoro? Perché cresce. Sì? Perché cresce tanto. Ecco. E deve poi? Stare. Dimmi. Perché lasciare dritto? Perché la pianta del pomodoro cresca dritto al mondo. Cresce dritto. Poi? Allora, guardate bene la posizione. Dimmi. Perché ogni impasto ti arriva prima il sole. Certo. Vedi? Il sole nasce lì e poi va a dormire dove? Là. Allora, quando ero piccolino come voi, no? Mio padre e mia madre l'aveva l'orto e diciamo che insistevano che io ci andassi a lavorare, il quale però, come tutti i bambini, non è che mi piaceva tanto lavorarci, però era un fattore che avevamo un pezzo di terra, può essere un pezzo di campagna, ci andava a seminare e allora quando avevamo un po' di tempo libero, ma il pomeriggio si andava in campagna a levare l'erba, fare qualcosa. Era un po' noioso, come ben sapete, no? Perché è una cosa che si preferiva andare a giocare a pallone o andare a fare un giro con le amiche, però si faceva perché era di consuetudine. Però cioè, l'abbiamo sempre fatto l'orto, è sempre esistito l'orto nelle famiglie, su quelle che praticamente avevano la terra. Se poi non c'era la possibilità di avere la terra, purtroppo decadeva questo discorso qua. Ma no, un tempo era così. Era.